Effetto Mondo. I always get the best people, who, by the way, the best people love Jesus, like Mike Pence, he loves JC. But under a Biden administration, it'll be all JC haters. You can kiss baby Jesus goodbye. Allora Giulia, possiamo anche raccontare questa ma gag, sì. Perché mentre c'era quest'audio io ho detto: ma chi è Trump? E tu era hai detto per, no, sì, quasi era, sì, era per insomma quasi. Chiudere con una nota di leggerezza. Era John Di Domenico, forse il più famoso imitatore negli Stati Uniti di Trump, insieme a Alec Baldwin, che però lo fa solo per Saturday Night Live. E naturalmente Donald Trump, naturalmente vedremo, perché insomma ci sorprende sempre, dovrebbe davvero fare un messaggio di fine anno di Buon Natale, deciderà lui. Questa era chiaramente un'imitazione. Trump si è legato molto, l'abbiamo detto nel tempo, si è legato molto ai cristiani più fondamentalisti, diciamo, e quindi si immagina che in questo sketch dica: dimenticatevi Gesù, se mai ci fosse Joe Biden, perché già Obama lo odiava Jesus e lo aveva quasi escluso dalle celebrazioni. Tutte cose naturalmente esagerate e non vere, però questo è per dire un po' del clima che si respira negli Stati Uniti, perché ieri Donald Trump, dopo aver minacciato di porre il veto sulla stimulus bill da 900 miliardi di dollari, che include sussidi da $600 per molti americani, ma anche tantissime altre misure di sostegno a chi ha più sofferto per la pandemia, e lo ricordiamo è il primo pacchetto dopo quello di aprile da 2,3 trilioni di dollari. Per ora questo veto non è arrivato. In compenso ha posto il veto su un'altra legge varata prima della pausa natalizia, che è una legge invece che riguarda misure per in generale del Ministero della Difesa. Adesso vedremo come andrà avanti, ma soprattutto, e su questo titolo la maggior parte dei giornali, ha fatto altre 29 provvedimenti di grazia, e questi sono di un certo peso e rilievo. Tra questi ci sono Michael Flynn e Roger Stone, che sono due avvocati fortemente implicati in una serie di vicende legali che hanno visto coinvolto Donald Trump e le indagini sul Russiagate. Poi c'è il padre del suocero, Jared Kushner, che anni fa fu indagato e condannato anche per accuse pesantissime di evasione fiscale, per le quali, sapete, negli Stati Uniti si va direttamente in prigione, sono sanzioni penali per l'evasione fiscale. E poi, e anche questo ha fatto molto discutere, ha concesso la grazia a 4 dipendenti di Blackwater, che è una di quelle società, sostanzialmente quelli che una volta chiamavamo mercenari, che in questo caso erano stati assoldati per mantenere l'ordine in Iraq, fecero fuoco su civili, ne uccisero parecchi e furono appunto anche messi sotto accusa, perché i mercenari non hanno certo diritto di uccidere i civili, e è arrivata la grazia anche per loro. Quindi insomma altri 29 provvedimenti in tutto, naturalmente è nel potere di Donald Trump fare, anche se, come abbiamo detto ieri, con un iter un po' accelerato che lascia qualche dubbio. Però sicuramente vuol dire, queste ultime mosse indicano, secondo la maggior parte dei commentatori, che vuole serrare i ranghi di tutte le persone che gli sono state super fedeli, che hanno pagato anche prezzi molto alti e che forse lui pensa potrebbero essere utili nelle ultimissime mosse prima del 20 gennaio, giorno dell'insediamento, del passaggio ufficiale di poteri da Donald Trump al president-elect Joe Biden. Giulia, quali sono gli altri macro argomenti che troviamo sui giornali internazionali? L'unica cosa, volevo farti sentire quest'altro audio, sì, perché insomma so che la cosa ci è cara in quanto giornalisti. Ieri abbiamo sentito la mega smentita di Newsmax, questo network molto ancora più a destra di Fox News. Ieri è arrivata un'altra smentita da parte di Lou Dobbs di Fox News, sempre perché intanto le società che loro accusavano di manipolazione dei dati degli scrutini elettronici avevano minacciato cause gigantesche, quindi è arrivata questa smentita. È molto sottile questa, perché Lou Dobbs non va in video dicendo rettifichiamo quello che abbiamo detto, ma dà la parola a un super esperto, sì, che dice, a domanda, ma è vero che ci sono stati dei brogli, dice: a me non risulta. Comunque il risultato cambia poco, è arrivata la smentita sulla notizia che Fox News aveva dato, che c'erano stati questi brogli, diciamo, negli scrutini elettronici. Se volete sentiamo questo audio. Have you seen any evidence that Smartmatic software was used to flip votes anywhere in the US in this election? I have not seen any evidence that Smartmatic software was used to delete, change, alter anything related to vote tabulation. E appunto ha delle prove? No, non ho alcuna prova, dice il super esperto, che Smartmatic, che appunto gestisce queste macchine per lo scrutinio elettronico, sia stata coinvolta in brogli. Secondo me non è casuale che appunto Donald Trump si stia un po', sono 2 o 3 giorni che non parla più di brogli, perché evidentemente insomma si è reso conto anche lui che l'argomento ormai non sussiste più, almeno di fronte alle evidenze che ci sono. Dicevi altro macro temi, beh, naturalmente sì. la Brexit, abbiamo sentito, insomma, siamo tutti in attesa di questo annuncio che potrebbe finale. Arrivare, certo. Infatti Financial Times titola UK and EU on cusp of trade deal, cioè proprio a un passo da questa 11th hour deal, come sapete che nel sistema anglosassone sostanzialmente si va da 0 a 12 per le ore AM e PM, quindi l'undicesima ora è praticamente l'ultima opportunità. Poi si torna anche su Financial Times sulle questioni di Israele, e naturalmente che ci titolano anche i giornali israeliani, perché come abbiamo detto ieri, si va verso una quarta elezione anticipata in 2 anni, e poi quindi unstable times, dice Financial Times, quindi tempi di grande instabilità, perché poi c'è anche l'annuncio ufficiale, che questo l'avevamo un po' anticipato ieri, leggendo i giornali naturalmente, non di nostra sponte, da domenica Israele entra nel terzo lockdown ed è il primo paese che lo fa con una misura così ufficiale e che coinvolge così tante persone. Giulia, come inquadrano i giornali la notizia un po' tecnica, ma quella dell'antitrust cinese che ha messo nel mirino Alibaba, colosso cinese dell'e-commerce? Non siamo molto abituati a sentire parlare di concorrenza in Cina. Sì, hai ragione, il Wall Street Journal dà grandissima evidenza a questa notizia, è in prima pagina e il titolo è Beijing Takes Action, quindi Pechino si muove contro i giganti del tech Alibaba e ANT Group, che è poi il braccio, diciamo, finanziario di Alibaba. È materia per chi sa leggere, divinare le mosse di Pechino, perché da una parte è una mossa tipicamente occidentale, da economia occidentale, dove c'è da mercati finanziari evoluti, dove ci sono le attività, le autorità di controllo e di antitrust, e dall'altra forse è una mossa tutta interna a Pechino, perché naturalmente in questo modo Pechino mette una grandissima pressione su Alibaba e il suo fondatore Jack Ma, che è anche l'uomo più ricco della Cina, anche, ricordiamolo sempre, in questa grande questione della gestione dei vaccini e della logistica dei vaccini. Il titolo Alibaba intanto ieri ha perso più del 6%, quindi è sicuramente, insomma, fior di pressione. Ecco, vedremo come si evolve questa cosa, se all'effetto annuncio seguono poi delle mosse da parte di Alibaba. Forse persino Pechino ha paura, diciamo, dell'Amazon cinese, perché diventa appunto una, così come Amazon è diventato quasi un peso, diciamo, sull'economia enorme, anche Alibaba, solo che ricordiamo quella cinese non è un'economia di mercato di fatto, quindi è molto interessante per chi conosce bene appunto il mondo dell'economia cinese, della politica cinese soprattutto. Giulia, noi occidentali, la dico un po' brutta, siamo un po' schizzinosi nei confronti dei vaccini russi e cinesi, no? Lo diciamo anche ieri in un sondaggio, però in altri paesi non è così, perché cosa hai trovato? Guarda, sui giornali argentini, Clarín per esempio in particolare, apertura sopra naturalmente alla fotonotizia, perché anche lì campionato di calcio con questa vittoria del Boca, ma intanto il titolo principale è che con un'autorizzazione così di emergenza il governo ha avallato l'utilizzo in Argentina del vaccino russo, il famoso Sputnik. Poi è curioso perché nella stessa pagina c'è anche una notizia che qui forse è passata un po' sotto sì, silenzio, che Putin ha firmato una... fantastico, il presidente della Russia che firma una legge per concedere l'immunità a se stesso e a tutta la sua famiglia quando non sarà più presidente, quindi sottolinea insomma questa grande se vogliamo attenzione, ma anche legame che l'Argentina ha in questo momento con la Russia. È chiaro che il vaccino di Pfizer, per quanto possano aumentare la produzione, non può coprire il globo. Esatto, e quindi visto che questo Sputnik, ripetiamo, non ci sono informazioni tante tante quante ne abbiamo sugli altri, però Putin dice di averlo fatto inoculare anche a sua figlia. Evidentemente il governo argentino e le autorità farmaceutiche locali di controllo, l'agenzia di controllo dei farmaci locale, ha valutato che c'erano sufficienti sicurezze. Giulia, ci fermiamo qua, so che tu sarai comunque presente nel palinsesto di Radio 24, dunque gli auguri li farai i prossimi giorni, se vuoi. No, però insomma, tanti auguri di una buona vigilia, di un buon Natale. Bene. Poi sì, ci sentiamo il 27. Con Effetto Giorno, Effetto Mondo, ci risentiamo l'anno prossimo, quindi diciamo per ora auguri oggi con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione, noi ci risentiamo naturalmente tra poco per l'ultimo aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata e buone feste. Ciao.